Siamo a visionare il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15, giovedì 7 luglio del 2016. 87.9 la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui ma anche in streaming dal sito internet della radio. ondarossa.info, sull'home page ci ascolta alla diretta. Le informazioni sulla trasmissione, sulla puntata di oggi e sulla trasmissione in generale, le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Elisabetta Antonioni di Cinemovel Foundation sull'iniziativa Libero Cinema in Libera Terra, cominciata il 3 luglio scorso, andrà avanti fino a settembre. Ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa, Elisabetta. Grazie Federico, ben ritrovati a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Un'iniziativa che seguiamo ogni anno, per chi ci ascolta e non la conoscesse, raccontiamola un po', Elisabetta. Dunque, siamo arrivati alla 11ª edizione di questo festival particolare, perché è un festival di cinema itinerante sui beni confiscati alle mafie e nelle piazze e nei parchi d'Italia. Quest'anno il festival è partito da Trevico con un omaggio a Ettore Scola, che è stato il nostro presidente onorario per 10 anni, quindi la prima proiezione si è aperta nel suo paese natale con la proiezione del film delle figlie Ridendo e Scherzando. Da Trevico poi la carovana si è spostata in Calabria, entrando dove ci troviamo in questo momento, a Polistena, nella piana di Gioia Tauro, entrando proprio nel vivo di questo festival, che ogni estate viaggia per la penisola e anche oltre i confini, con un furgone attrezzato con le tecnologie digitali. In questo modo abbiamo la possibilità di allestire in pochissimo tempo delle spazi cinematografici temporanei per dare la possibilità alle persone di essere raggiunte direttamente dalle emozioni e dalla sorpresa del cinema. La sorpresa del cinema è anche il titolo che abbiamo dato a una delle novità di questa edizione, che sono due campi tematici di estate liberi dedicati al cinema. Il primo si svolge proprio qui a Polistena. Ettore diceva la cultura così come la sorpresa sono nemiche delle mafie. Le mafie non amano le sorprese e non vogliono trovarsi di fronte dei cittadini responsabili che hanno la possibilità di scegliere e di decidere da che parte stare. Perché la sorpresa? Perché noi arriviamo con un camion in un posto dove prima non c'era niente, sì. Montiamo lo schermo, montiamo il proiettore e poco dopo c'è la magia del cinema che coinvolge tutti gli spettatori, ma un cinema civile che ci mette nelle condizioni di riflettere e di uscire dalla proiezione con qualche elemento in più, con qualche condivisione in più, con qualche idea in più per scegliere un percorso di contrasto alle organizzazioni criminali mafiose. Elisabetta, quanti sono i titoli che porterete in giro in questa edizione? Dunque, i titoli di questa edizione sono 12 film che noi proponiamo. Abbiamo Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, Fiore di Claudio Giovannesi, Taxi Teheran di Panay, Appena apro gli occhi della Buziz, I ricordi del fiume dei fratelli De Serio, Due l'ora di Andrea D'Ambrosio, Era d'estate di Fiorella Infascelli, che l'abbiamo proiettato proprio ieri sera con un intenso dibattito sulla situazione di Falcone e Borsellino, questo aspetto inedito della loro vita quando vennero tra virgolette rinchiusi all'Asinara per scrivere la sentenza del maxi processo. Poi abbiamo Redemption Song, che è un film di Cristina Mantis, senza distribuzione, l'abbiamo presentato il 28 giugno alla festa mobile che abbiamo fatto a Roma ed è un film sui diritti dei migranti, sulle migrazioni. Poi abbiamo Il bambino di vetro di Federico Cruciani e un film che riproponiamo quest'anno, che è La mia classe di Daniele Gaglianone, perché come il nostro è un festival partecipato. Durante l'anno noi proponiamo ai territori e alle cooperative di Liberaterra e alle associazioni culturali che condividono con noi il festival, proponiamo una serie di titoli. Il risultato della programmazione del festival è quindi un risultato condiviso. Anche lo spettacolo che proponiamo tutte le sere prima delle proiezioni, Mafia Liquida, che è una performance dal vivo che racconta l'evoluzione delle mafie, è il risultato di un percorso che abbiamo fatto sia nelle scuole e fuori sui territori, per cui in questo spettacolo descriverlo è molto difficile perché interviene la lavagna luminosa, quindi un oggetto arcaico potremmo dire, e un proiettore di ultima generazione. Lo spettacolo racconta la nascita delle mafie, quindi parliamo di Lupara e Coppola, fino ad arrivare al mafioso finanziario, ma tutto ciò viene raccontato attraverso le scene dei film e le intercettazioni telefoniche sulle quali l'artista visivo Vito Baroncini elabora dei disegni direttamente dalla lavagna luminosa. Invito tutti quelli che possono raggiungerci a venire a una delle proiezioni, perché queste serate nei territori sono dei momenti di partecipazione attiva. Senti, per ecco, la curiosità tecnica, quante persone compongono la carovana e poi come fate una volta arrivati a pubblicizzare l'evento rispetto a magari i passanti? Dunque, la troupe è composta da 6 persone. Viaggiamo tutti e 6 sul furgone insieme all'attrezzatura, è come un piccolo circo viaggiante, quindi noi arriviamo, montiamo e finita la serata smontiamo e ripartiamo per un altro territorio, per un'altra piazza. La possibilità di essere informati sulle iniziative viene affidata alle associazioni del territorio. Già dal diverse settimane prima della partenza del festival i territori hanno tutto il materiale di promozione che viene distribuito, e oltre a questo a questo uniamo anche la possibilità di fare quello che si faceva una volta. Adesso in questo momento c'è una macchina che sta girando per le strade di Polistena con il megafono e annuncia vecchio stile, esattamente vecchio stile. E aggiungo questa cosa che è un particolare: siccome noi facciamo, come tu sai, noi le carovane di cinema itinerante le facciamo anche nel continente africano dove Cinemovel nasce, qui in Italia usiamo la macchina col megafono, in Africa usiamo il carretto con i cavalli e i musicisti sopra il carretto che suonano i djembe e vanno in giro per il villaggio ad annunciare la proiezione serale. Quindi il metodo è lo stesso, gli strumenti cambiano a seconda delle situazioni dove ci troviamo. Poi chiaramente abbiamo Facebook, abbiamo Twitter, che aggiorniamo tutti i giorni con le proposte e le tappe che si stanno svolgendo in quel momento. Benissimo. Allora, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione? Esatto, tutte le tappe, il nostro sito internet è cinemovel.tv, cinemovel.tv, con la possibilità di collegarsi da Cinemovel direttamente a Facebook e Twitter per vedere tutte le novità che si aggiungono e anche le persone che partecipano alle proiezioni. Per esempio ieri sera abbiamo avuto ospite Michele Albanese, che è un giornalista calabrese sotto scorta purtroppo perché è stato minacciato, che è venuto con noi a raccontarci la storia dell''ndrangheta in Calabria e soprattutto quali sono le evoluzioni delle organizzazioni criminali mafiosi e come si muovono sul territorio, ricordandoci ancora una volta che le mafie non sono un problema del Sud Italia, ma sono un problema universale, perché toccano l'economia, perché toccano gli affari, perché toccano il riciclaggio del denaro. Bene, Elisabetta, è stato come sempre un piacere. Ci sentiamo per le prossime novità. Grazie mille e buon proseguimento. Ciao Elisabetta. Ciao. A presto, ciao Federico. Elisabetta Antognoni di Cinemovel su Libero Cinema in Libera Terra da luglio a settembre. E ritroviamo Roland Seiko, questa volta sempre come regista, ma del documentario L'Attesa, presentato a Taormina pochi giorni fa. Roland, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben trovato. Tutto bene? Sì, come va? Bene, bene. Volevo sapere intanto subito com'è stata l'accoglienza del tuo lavoro a Taormina. Beh, credo che il film sia andato bene, almeno a giudicare dall'accoglienza in sala e poi anche da quella stampa che poi ne ha scritto dopo. Credo che il film sia andato bene, certamente è un film un po' difficile, forse lo dico perché è nato su una specie di richiesta per poter fare un film sulla visita del Papa in Albania, però poi un po' manipolata come idea tra virgolette da me, per raccontare attraverso il viaggio del Papa un'altra pagina dell'Albania, che era quella della persecuzione del clero. Dunque, essendo un film che ha uno sfondo storico quasi sconosciuto al pubblico, credo che sia comunque arrivato quel tentativo artistico di raccontarlo in una via metaforica proprio da questa storia. Ecco. Senti, il progetto come è venuto fuori, come nasce? Sì, come ho accennato prima, è nato attraverso l'occasione che si è presentata con la visita di Papa Francesco in Albania, che ha scelto l'Albania come il primo paese per visitare durante il suo papato, e lui nelle motivazioni ha precisato che sceglieva l'Albania come un paese che ha a lungo sofferto le ideologie del passato praticamente. Da questa frase forse è scaturita la necessità di raccontare una pagina quasi sconosciuta della storia dell'Albania, che è la proibizione della libertà di culto praticamente, una guerra lunga di quasi 40 anni contro il clero, specialmente quello cattolico, e attraverso questa proibizione non raccontare semplicemente la libertà religiosa, ma la libertà di parola, in fin dei conti la libertà di pensiero anche. Dunque questa occasione si è sfruttato tra virgolette sempre per raccontare una storia un po' più universale, non sì, semplicemente un viaggio del Papa. Ecco, anche proprio a questo proposito volevo chiederti, quindi è interessato anche altre forme di culto questa repressione? Sì, sì, assolutamente, tutte le forme di culto. L'Albania si è dichiarata addirittura nel 76 l'unico paese ateo nel mondo praticamente, e tutte le, sia musulmani, cattolici, ortodossi, hanno vissuto praticamente una furia di distruzione sia nei luoghi di culto che le persone poi che erano il clero stesso. Sul clero cattolico decisamente, questo sono d'accordo quasi tutti gli studiosi, questa furia è stata maggiore, anche perché forse la Chiesa cattolica aveva avuto anche un ruolo politico molto spesso nella vita albanese. Senti, poi dicevi che comunque è una pagina poco conosciuta, perché che è successo della memoria? No, è la pagina poco conosciuta, è proprio questo aspetto, che si sa che l'Albania era sotto una dittatura, ma si sa poco che questa dittatura era un po' sui generis rispetto alle altre dittature dell'Est, era totalmente staccata dal blocco sovietico, era totalmente isolata nella sua follia, non aveva nessun alleato, cioè se il suo alleato fino al 61 era stato l'Unione Sovietica, poi era diventato il suo nemico come l'imperialismo americano, per utilizzare i termini dell'epoca. Poi se erano stati i cinesi fino al 78, anche loro, dai cinesi si era preso un po' in prestito la loro furia di rivoluzione culturale, forse anche la proibizione della religione in Albania è stata ispirata anche di Albanian Way dalla rivoluzione culturale cinese. Questa particolarità dell'Albania di portarlo fino in fondo la sua guerra con un fanatismo stalinista praticamente contro la religione, lo rende particolare, lo rende anche un po' sconosciuto ai di più, certamente a chi non è interessato alla storia di un paese così vicino qual è l'Albania. Come è costruito il documentario? Con documentazione e interviste? No, io ho escluso totalmente le interviste, ho escluso il documentario, ha una forma narrativa un po' particolare, che è stato anche un esperimento per me, prendendo due storie parallele che vanno in continuo mentre c'è il viaggio dell'aereo da Roma verso Tirana. Sono due storie, di cui una è da un frate francescano, padre Zef Lumi, che è stato in carcere, nel carcere comunista per 26 anni, è un suo racconto che va in voice over, certamente il testo letto, va in parallelo con un altro testo, quello della costruzione e della distruzione della cattedrale di Scutari. La cattedrale di Scutari anche quella è importante perché è un luogo simbolo sia del cattolicesimo albanese, un po' il luogo simbolo di tutte le religioni in Albania, anche per la sua trasformazione e umiliazione che il comunismo gli fa nel 76, trasformandola in un luogo di culto dei congressi del marxismo, del marxismo-leninismo. Cioè. Anche questa volontà dell'ideologia nuova, dell'ideologia comunista, di poter appropriarsi dei luoghi e anche delle processioni, anche delle forme dell'altra ideologia, di appropriarsi e occuparne lo spazio praticamente, anche fisicamente, è un aspetto interessante che secondo me dà anche una metafora generale di quante le ideologie, che siano dottrine religiose, che siano dottrine politiche, praticamente possono influenzare le persone. Senti Roland, che forma di distribuzione avrà il tuo lavoro? Io credo che siccome il documentario è coprodotto e distribuito dall'Istituto Luce, sicuramente farà quella strada che normalmente seguono i documentari, con una ridotta uscita sicuramente in sala, perché documentari non possiamo sicuramente pretendere che abbia una distribuzione maggiore nelle sale, però l'Istituto Luce negli anni ha dimostrato almeno che ha dato molta attenzione ai documentari anche portandoli nelle sale, forse è l'unico distributore che ha portato i documentari nelle sale e poi decisamente nelle televisioni e in DVD. Va bene, quindi vedremo. Roland, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a te, arrivederci. Ciao. Ciao. Roland Seiko, regista del documentario L'attesa. Eccoci con Fabiana Antonioli, regista del documentario Il segno del capro. Fabiana, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Oh, allora, è un documentario che ho scoperto su Italian Doc, l'ho visto e insomma mi incuriosiva molto come storia e anche parlarne con te. Raccontacelo un po', soprattutto per chi ha l'ascolto. Sì, Il segno del capro è una raccolta di storie di anarchia italiane attraverso le parole di protagonisti che hanno accettato di raccontarsi, e anche attraverso le immagini di luoghi famosi o molto meno famosi di anarchia in questo paese. È un lavoro scomodo, perché è scomodo ad alcuni anarchici, perché comunque non è un lavoro di militanza, è stato realizzato per tentare di spiegare e dare un nuovo significato più vicino alla realtà di anarchia. E credo infatti abbia trovato più consenso tra i veri stimatori dei documentari. Senti, e l'idea di partenza qual era stata? L'idea di partenza era, come per me in altri lavori, una necessità personale di capire. Sì. Ho sempre vissuto in contatto con mondi anarchici pur nella vita facendo una vita assolutamente connessa alla società più tradizionalmente intesa per lavoro più che tutto. E l'idea vera è venuta una sera dopo l'incontro con Lello Valitutti, anarchico, che era presente nella questura di Milano quando Pino Pinelli venne ucciso, e che partecipò una sera al campeggio in Val di Susa, organizzato dal movimento Notav, che frequentavo e frequento tuttora. E lì capì che c'erano tante storie che non avevano ancora avuto, secondo me, il degno rilievo che meritano, e soprattutto ho capito che l'anarchia poteva dare ancora tantissimo oggi come idea, come senso di comunità, di condivisione, un'immagine molto lontana da quella che si ha di anarchia e di anarchici, ecco. Ecco, proprio a questo proposito, cosa ti attira di più? Quali pensi che siano gli aspetti più interessanti del pensiero e della pratica libertaria? Ma senz'altro il vivere in maniera attiva e non passiva, il non farsi vivere, ecco, dal contesto in cui si è, decidere la propria strada con gli altri tendenzialmente, quindi nel rispetto anche della libertà degli altri. Questa è la prima cosa. Sì. Certo, scelte scomode, indubbiamente è più semplice vivere come fanno la maggioranza delle persone, secondo i precetti indotti, ecco, se non imposti, indotti dal mondo in cui si vive, religiosi, sociali, familiari, eccetera. Quindi questa è senz'altro un'attrazione enorme che ho sempre avuto per chi si pone, se non contro, in modo diverso, ecco. Quindi, secondo me c'è molto da imparare. Senti, nella scelta delle storie che hai raccontata, qual è stato il criterio? Allora, il criterio è stato, si è manifestato realizzandole, nel senso che sono partita da alcune persone, Lello Valitutti, addirittura un prete, Don Gallo, che anche lui venne in Val di Susa a parlare anche di anarchia, ma persone anche meno famose, le quali mi mandavano e mi consigliavano, una volta fatta l'intervista, una volta che si era sbloccato, insomma, che si era creato anche un rapporto umano, mi consigliavano qualcun altro, per cui è stata una realizzazione che si è creata grazie anche alle persone che ho intervistato. A un certo punto ho detto ok, c'è materiale sufficiente per definire bene cosa volevo fare, ecco. Ma una quantità enorme di interviste non sono poi state utilizzate, però sono servite innanzitutto per me, per sapere cose, e poi magari anche per arrivare ad altre persone, ad altri luoghi. Alcuni anche si sono poi, diciamo, tirati indietro perché non hanno più condiviso alcune scelte di montaggio, insomma è stato una... il montaggio finale è stato il frutto di un parto molto lungo, ecco. Senti Fabiana, che percorso hai deciso di far fare al tuo lavoro? Allora, adesso ancora per un paio di mesi è in diffusione tramite festival di documentari, sono molto contenta che sia già stato selezionato 4 volte, ha anche vinto 2 festival qui in Italia. E poi nei prossimi, finita questa fase, lo sarà senz'altro libero in rete, volutamente, perché la cosa più corretta da fare visto il tema. Senti, e c'è come riferimento un sito internet, una pagina Facebook? Dunque, sito internet purtroppo no, c'è una pagina Facebook che viene costantemente aggiornata su così proiezioni. Adesso sono, diciamo, nella fase finale delle proiezioni in giro per l'Italia, sono state organizzate molte, sono assolutamente a disposizione se qualcuno volesse organizzare una visione ci sono, quindi contattatemi tramite la pagina Facebook e spero, e anche per averne una copia, insomma è una produzione del tutto indipendente, un'autoproduzione della cooperativa di produzione video di cui faccio parte, e per cui si è mantenuto libero il lavoro dall'inizio alla fine. E senti, visto che organizzi proiezioni itineranti in giro per l'Italia, e credo anche su richiesta, volevo sapere come è stato accolto negli ambienti libertari il tuo lavoro. Anche ma poi... in maniera, sì, in maniera varia, da critiche feroci a grandi apprezzamenti. Ok. Secondo motivi che credi non so neanche a volte spiegare, se non che probabilmente in alcune vicende senz'altro le ferite sono ancora molto aperte, per cui io ne do un'interpretazione, in realtà io do voce, non ho manipolato in nessun modo le parole degli intervistati, sì, che però hanno un'opinione, certo, chiaramente non necessariamente condivisa da tutti. In un caso perché non venivano, secondo me anche una critica del tutto gratuita, non contenevano vicende dell'attualità, quando in realtà è incentrato e finisce proprio sul movimento notale, che da sempre ha avuto un grosso legame col movimento anarchico, dalla vicenda di Sole Baleno, che è proprio il tema, sì, raccontato. Però nel complesso secondo me è andata bene, ecco, cioè, e chiaramente si trascina delle critiche questo lavoro. Sì. Bene Fabiana, allora magari ci sentiremo prossimamente per le novità. Molto volentieri. Un abbraccio e a presto. Grazie tantissimo per il vostro lavoro, grazie a tutti. Ciao Fabiana, a presto. Buona giornata, ciao anche a te. Fabiana Antonioli, regista del documentario Il segno del capro. In linea abbiamo Antonio Flamini, direttore della seconda edizione del Roma Africa Film Festival. Sarà ospitato alla Casa del Cinema qui a Roma dal 13, quindi mercoledì della prossima settimana, al 16 luglio. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, seconda edizione, perché ce n'è stata una prima, allora ti chiedo come è nato il progetto Roma Africa. Ma è nato dalla passione per il cinema e per l'Africa, mia e di altri tre soggetti che hanno reso possibile questa bellissima manifestazione che, come hai detto tu, è arrivata alla seconda edizione, una seconda edizione allungata nel tempo, perché è un giorno in più rispetto all'anno scorso, e ampliata nell'offerta di lungometraggi, corti e documentari che proponiamo, grazie al successo che abbiamo avuto l'anno scorso di pubblico, critica, ma soprattutto io direi proprio di pubblico, e questo ha fatto sì che anche la Casa del Cinema abbia ampliato lo spazio esterno, aggiungendo più posti per consentire a tutti di vedere le proiezioni. Quante le opere in programmazione, Antonio? Guarda, sono 11 lungometraggi, altrettanti corti, perché ogni lungometraggio viene anticipato da un corto, e poi circa 12-13 documentari. Produzione dell'ultimo anno? Guarda, sono produzioni molto recenti, dell'ultimo anno o degli ultimi anni, comunque in anteprima e quasi tutte inedite in Italia. Senti, un po' tutti i paesi africani sono interessati dalla scelta? Ma noi abbiamo coinvolto, grazie all'intervento del Ministero degli Esteri, con un incontro che abbiamo fatto nel mese di marzo, tutte le ambasciate africane, e se l'anno scorso avevamo un problema di reperire il materiale, quest'anno ce l'abbiamo in eccesso, tant'è vero che molto lo lasceremo al prossimo anno. Sono coinvolti circa 20-25 paesi quest'anno, coinvolti direttamente con i loro lavori, però abbiamo coinvolto tutte le ambasciate africane, tutti i paesi africani, nessuno escluso. E sono previste anche le presenze degli autori in alcuni casi? Quest'anno ce ne saranno di più rispetto all'anno scorso. Okay. Noi apriremo con un film sudafricano la prima giornata dedicata a Sudafrica e saranno presenti i produttori, poi il secondo giorno avremo il regista di un film eritreo, a seguire avremo l'ultima sera la presenza della regista e degli attori protagonisti del film di Usura, In the Morning. Durante i pomeriggi all'interno, nelle sale interne, avremo numerosi registi che introdurranno i film. Devo dire che quest'anno, ecco, l'elemento di novità è proprio questo: più protagonisti parteciperanno all'introduzione dei loro lavori. Senti, ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sulla programmazione? Ma sicuramente il nostro sito, che è www.romaafricafilmfest.com, e poi direttamente la Casa del Cinema. Benissimo. Antonio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Io ti ringrazio, Credi Lupo, e ricordo che tutte le proiezioni saranno ad ingresso completamente gratuito, finanziamento posti ovviamente. Importante, certo. Antonio, a presto, ciao. Grazie, un saluto a te e agli ascoltatori. Antonio Flamini, direttore della seconda edizione del Roma Africa Film Festival alla Casa del Cinema qui a Roma dal 13 al 16 luglio la prossima settimana. Oh, adesso non era in scaletta, ma siccome ho ritrovato tra lo spam questa mail che mi era arrivata e per un'altra rassegna qui a Roma, ne parliamo direttamente con lei, che è Teresa Paoli. L'iniziativa si chiama Cinemario, ci sono tre prossimi appuntamenti in programma. Teresa, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Allora, Cinemario, che cos'è? Raccontacelo un po'. Sì. Pronto, vi sento adesso? Sì, ecco. Ci racconti un po' di questo progetto Cinemario? Certamente. Allora, Cinemario non è un cinema, non è una rassegna tradizionale. Diciamo che è un cinema itinerante. È l'iniziativa di un gruppo di filmmaker che abitano a Roma Nord, in una zona dove non sono presenti molti cinema né iniziative culturali di questo genere, e dato che non abbiamo uno spazio abbiamo deciso di organizzare una rassegna di documentari dove ci ospitano, per cui abbiamo fatto 5 appuntamenti da gennaio, abbiamo iniziato a gennaio, ospitati dal Museo Laboratorio della Mente nel parco del Santa Maria della Pietà, e adesso saremo ospitati nel padiglione dell'ex lavanderia, il padiglione 31, nel parco Santa Maria della Pietà, dove c'è una bellissima iniziativa che è l'estate romana dell'ex lavanderia, e dove noi proietteremo 3 film documentari. Ok. Senti, la scelta di questi titoli come nasce? Allora, innanzitutto cerchiamo dei titoli, argomenti che ci interessano, molto spesso sono documentari sociali e che possono avere un riscontro di pubblico nel territorio, perché la nostra iniziativa in realtà vuole creare confronto, dibattito, intrattenimento, vuole creare qualcosa sul territorio. Cioè, noi ci proponiamo di coinvolgere le persone che abitano a Monte Mario, che magari non hanno voglia di spostarsi a Roma Sud, o di farsi la traversata della città per vedersi semplicemente un film documentario che non potrebbero vedere neppure in televisione. Senti, ci dai tutti i riferimenti per saperne di più? Certo, allora, in rete. Lunedì 11 luglio alle 21 ci sarà un film documentario di Fabrizio Marini sulla storia del giornalista Giovanni Spampinato, sì, che è giornalista di Ragusa che è stato assassinato, e ci sarà il fratello di Giovanni. Martedì ci sarà questo documentario tra l'altro è stato prodotto da Rai Storia. Martedì ci sarà un film di Francesco Cordio, che è Musica Valida per l'Espatrio, è il viaggio musicale del trio Gazzè, Silvestri, che non è soltanto viaggio musicale, ma in realtà racconta attraverso questo viaggio i cosiddetti cervelli in fuga, storie di italiani migranti. Mentre il 16 alle 21, sempre nell'estate romana dell'ex lavanderia, al padiglione 31 del Santa Maria della Pietà ci sarà L'Oro di Napoli di Donni, prodotto e distribuito da On Air. Okay. Invitiamo tutti, quelli di zona ma anche chiunque, a questa iniziativa, perché vorremmo che continuasse nel tempo. Senti, in rete c'è un sito, una pagina Facebook, qualcosa del genere? Sì, noi abbiamo un sito Facebook che si chiama appunto Cinemario, Cinema Itinerante, si trova facilmente, basta digitare appunto Cinemario nella ricerca e siamo noi. Chiunque ci può scrivere e proporre titoli, perché essendo un gruppo fluido, diciamo, non ben strutturato, noi veramente quello che ci interessa è la partecipazione sia a livello organizzativo che ovviamente di pubblico. Portiamo a Roma Nord il cinema documentario. Benissimo. Allora Teresa, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie. Ciao. A voi. Ciao. Teresa Paoli, per quanto riguarda la rassegna Cinemario. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. C'è tutte le informazioni, le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari e sulla pagina Facebook di Visionari. Mattia Epifani, regista del documentario Il Successore, che sarà in programmazione alla Casetta Rossa a Garbatella qui a Roma l'11 luglio, cioè lunedì. Mattia, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, ciao a tutti, ciao Federico. Allora, raccontaci un po', cos'è Il Successore? Allora, questo è un documentario, un film che è nato, l'idea di questo film è nato circa un annetto fa. Diciamo racconta la storia di un uomo che ha deciso di cambiare radicalmente la sua esistenza, ed è Vito Alfieri Fontana che è il protagonista appunto del Successore, e per far questo si è, diciamo, liberato dai condizionamenti del proprio ambiente culturale, economico, sociale e familiare soprattutto. Io amo fare questa introduzione per lasciare nascosti molti aspetti del film che vorrei fossero, diciamo, relegati alla visione del film. Ecco, non voglio svelare troppo. Comunque Vito Alfieri Fontana è stato un produttore italiano pugliese di Mina Antiuomo, e il suo cammino di trasformazione esistenziale umana ha ovviamente a che fare strettamente con questa sua attività di produttore di armi. No, non lo è più ovviamente oggi. Senti, come nasce l'idea di questo lavoro? Allora, noi circa più di un anno fa, io e Francesco Lefons, che è il co-sceneggiatore di questo film documentario, eravamo alla ricerca di una storia su dei personaggi della Puglia, ecco, sulla storia recente della Puglia e su delle storie umane, personaggi della Puglia. Io ero a conoscenza della storia di Vito Alfieri Fontana, della Tecnovar, che è il nome dell'azienda di Mina Antiuomo, che era di Vito Alfieri Fontana appunto, ne ero a conoscenza già da un po' di tempo, però questa storia era un po' caduta nel dimenticatoio, insomma l'avevo dimenticata per molto tempo. Poi insieme a Francesco, ripeto, e a Davide Barletti, che è il produttore esecutivo del film, ci è ritornata alla mente questa storia di Vito Alfieri e della Tecnovar. Abbiamo deciso di incontrarlo e da lì poi, insomma, è iniziata una collaborazione, la fase di ricerca del film, e l'abbiamo poi, e siamo andati avanti con la produzione. Cioè, è nata così, in questo modo, eravamo alla ricerca di una storia sulla Puglia e su dei personaggi pugliesi. Senti, cosa, conoscendo più da vicino il personaggio, che impressioni ne hai avuto? Poi insomma chi vedrà il film si farà un'idea anche più chiara. Vito Alfieri è una persona molto complessa, è una persona che per fare questo passaggio, questa sua trasformazione così profonda attraverso vari stadi della sua persona, del suo essere, no? E quindi a me personalmente ha lasciato molto. È una storia che è simbolica della lotta tra il bene e il male, anche soprattutto del dualismo dell'essere umano, dell'ambiguità che credo ogni uomo si porti dentro di sé. Poi ovviamente nel caso di Guido Alfieri, quando si ha a che fare con un destino familiare, personale, legato a una realtà così dura come la produzione di armamenti, allora diventa tutto più complesso, no? Questo conflitto interiore diventa più pesante. A me interessava molto questo aspetto, e incontrando Vito Alfieri mi sono interrogato molto su questo aspetto dell'esistenza, no? Lui mi ha dato modo di riflettere su questi aspetti, ecco. Senti Mattia, per la distribuzione cosa ci sai dire? Allora, la distribuzione italiana, sul territorio italiano del film è affidata a Fluid Produzioni, che ha anche fatto produzione esecutiva, mentre per la distribuzione all'estero se ne occupa Decker Distribution, che è una società tedesca. Noi cerchiamo per i territori italiani di fare, anche io insieme a Davide, di fare il massimo per far girare il film. Adesso in questa prima fase diciamo è presente nei festival dove è possibile, insomma, dove veniamo selezionati, e poi cerchiamo di organizzare proiezioni come quella che ci sarà lunedì a Casetta Rossa a Roma. Insomma, ci muoviamo un po' da soli, un po' cerchiamo di darci una mano facendo una rete tra noi, tra altri registi, altri produttori, i nostri amici, eccetera. Però diciamo gestiamo in questo modo la distribuzione, che non è, come sappiamo, facilissima in Italia, sia per il cinema di fiction sia per i documentari, tra virgolette, indipendenti. Quindi ci muoviamo in questo modo, però per adesso siamo riusciti a farlo vedere in molte città e ha girato già abbastanza. Potrebbe di più, però insomma ci accontentiamo, pian piano cerchiamo di sviluppare questo aspetto. Bene. Senti Mattia, ci sarai anche tu, immagino, lunedì, sì, alla Casetta Rossa a presentarlo? Sì, ci sarò io, sì. Okay. Ci sono miei amici, insomma, quindi mi fa particolarmente piacere. Ci sarei andato comunque, ma mi fa insomma ancora più piacere perché sono miei amici. Senti, per saperne di più, in rete dove si può cercare? Il film interamente? No, informazioni sul film, se c'è una pagina Facebook, un sito internet. Guarda, sì, c'è la nostra pagina Facebook che si chiama Il Successore, e poi sul nostro sito, che è Il Successore, sia in italiano che una versione inglese, insomma, lì pubblichiamo un calendario delle varie proiezioni, dei vari posti, poi ci sono un po' di materiale, cioè i preskits, eccetera eccetera, insomma sul sito, ma sulla pagina Facebook, su quella Twitter, ma quella Facebook è più aggiornata, ci sono informazioni, ci sono più informazioni, ecco lì. Benissimo, allora Mattia, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie Federico, ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao. E Mattia Epifani, regista del documentario Il Successore, alla Casetta Rossa Garbatella qui a Roma lunedì 11 luglio. Eccoci con Luca Bernini di Nexo Digital per parlare con lui della distribuzione del documentario David Bowie Is, dall'11 al 13 luglio prossimi, quindi prossima settimana. Luca, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, grazie mille e grazie a tutti voi per avermi richiamato. Tra l'altro al documentario e alla figura di David Bowie abbiamo dedicato la foto di copertina della puntata di questa settimana. Raccontaci un po' di questo lavoro, di cui non sapevo neanche l'esistenza, figuriamoci. Intendi dire del film? Sì, sì. Ah, ok. Beh, allora, guarda, presto detto, in realtà è un ritorno al cinema, sì, nel senso che questo David Bowie è un film, è il film di una mostra dedicato a questa mostra del Victorian Albert Museum, è una mostra del 2013, il film è stato realizzato in quell'anno e diciamo che copre dal punto di vista dell'allestimento e della trattazione tutto quello che è stato il lavoro di Bowie fino a quel periodo, quindi per intenderci lascia fuori il suo ultimo disco intitolato Black Star. Ciò non toglie che questo film che racconta la mostra, che poi in realtà ha un modo molto particolare di introdurla, perché la mostra che arriverà poi in Italia esattamente nei giorni successivi al nostro titolo che va al cinema. È una mostra multimediale molto avvolgente, quindi è una cosa che raccontare solo con le immagini non è facile, per cui la scelta che è stata fatta in questo film è stato quello proprio, ecco, invece di cercare di farti essere alla mostra, in realtà di raccontartela, mostrandotela naturalmente, ma avvalendosi anche di contributi di personaggi che vengono intervistati e che raccontano e declinano all'infinito all'interno del film quello che poi è il titolo, David Bowie's, ossia questo è, che definisce la valenza di un artista che in realtà in 50 anni di carriera è riuscito ad affrontare e a creare tantissimi immaginari che poi la mostra e il film ripercorrono. Senti, quali sono le caratteristiche della mostra, Luca? Beh, allora, le caratteristiche della mostra, come ti dicevo prima, intanto è una mostra divisa in tre grandi sezioni, che sono tre sezioni così strutturate. La prima ripercorre un po' proprio dall'infanzia di Bowie alla sua gioventù nella Swing in London degli anni 60, quindi ripercorrendo anche il suo periodo artistico a firma David Jones, che poi è il suo vero nome, fino ad arrivare al grande successo di Space Oddity nel 66, che da quel momento lì gli apre sostanzialmente una carriera. La seconda parte della mostra sviluppa appositamente questa carriera dal punto di vista discografico e di produzione musicale, cinematografica, per poi tutte quelle che sono state le varie declinazioni di Bowie, mentre la terza parte, la terza sezione è legata più invece al parallelo lavoro svolto dal vivo, quindi è una parte che grazie a contributi video ti mostra le varie incarnazioni di Bowie sul fronte del live, e poi c'è tutta una parte naturalmente dedicata ai costumi di scena, ai bozzetti. È una mostra che dimostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto Bowie sia stato sempre coinvolto al 100% in ogni singola scelta, dalla mossa fatta in una coreografia alla scelta di un dettaglio nei costumi, naturalmente per non parlare poi di tutta la parte musicale. In questo senso qui è una mostra che proprio rende giustizia a una visione artistica. Adesso non voglio farti un paragone che può sembrare azzardato, so che da aprile scorso a Londra c'è una mostra molto importante dedicata ai Rolling Stones, e mi sembra di non aver letto recensioni altrettanto entusiastiche rispetto a quella di Bowie, proprio perché mentre quella dei Rolling Stones magari celebra proprio la storia e la leggenda del gruppo, quella di Bowie ti dà un po' più modo invece di immaginare quale sia stato il processo artistico che era dietro tutte le sue impersonificazioni. Senti, rispetto al documentario, ecco, quanto c'è della mostra nel documentario e quanto il documentario è autonomo rispetto alla mostra? Beh, diciamo che il documentario è un documentario sulla mostra, ma come ti dicevo prima ha una sua autonomia, proprio perché mentre tu entri nella mostra, la percorri e vieni sostanzialmente avvolto e immerso in suoni, voci di letture, passando nelle varie zone della mostra, questo naturalmente non è possibile nel film, o meglio è stata scelta un'altra strada. La strada è quella che i due curatori, che sono Victoria Brooks e Geoffrey Marsh del Victorian Albert Museum di Londra, raccontano come hanno costruito la mostra, ce ne fanno vedere diverse parti, diverse sezioni, e chiamano di fronte a un pubblico che loro ospitano nel posto in cui per l'appunto si gira il documentario, chiamano a testimoniare alcuni personaggi che declinano i vari aspetti artistici di Bowie. Ad esempio c'è Jarvis Cocker, che è il leader dei Pulp, che naturalmente viene chiamato proprio a parlare dell'aspetto musicale, di quanto crescere musicalmente con un personaggio come Bowie come punto di riferimento lo abbia stimolato e gli abbia dato la possibilità di e il coraggio anche di esprimersi proprio liberamente come artista. Quindi, per rispondere succintamente alla tua domanda, è un film che non esaurisce la mostra, ma che ti può incuriosire e poi andarla a vedere, che poi è il motivo per cui la portiamo al cinema proprio nei tre giorni precedenti all'arrivo in Italia, a Bologna, di questa mostra, che poi sarà per 4 mesi ferma a Bologna. Benissimo. Senti, sul documentario, informazioni in rete, dove si possono trovare? Vabbè, ti rimando alla pagina nexodigital.it, sì, dove naturalmente ci stanno i vari titoli in programmazione che seguiamo noi, i cinema che trasmetteranno, i cinema che daranno spazio in programmazione alla mostra sono 190 più o meno, di cui ce ne sono 14 soltanto a Roma e altri 4 nel Lazio, a dimostrazione del fatto che la prima volta che avevamo portato al cinema il film era andato molto bene, perché avere comunque 14 cinema su Roma per un appuntamento che poi sta in sala 3 giorni è un ottimo risultato. Bene, allora Luca, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille Federico, grazie a tutti voi. Ciao ciao. Ciao. Luca Bernini di Nexo Digital sulla distribuzione del documentario David Bowie Is dall'11 al 13 luglio prossimi. Proviamo ora Angelo Loi, regista del documentario Luoghi Comuni. Angelo, ben ritrovato qui da noi. Buongiorno, ciao a tutti, ciao. Allora, mi hai segnalato per email questo tuo nuovo lavoro, Luoghi Comuni, di cosa si tratta, Angelo? Allora, Luoghi Comuni è la storia di una... Scusate, c'è un po' l'affanno che stavo camminando, adesso mi fermo. È la storia di una donna egiziana che io ho conosciuto in un precedente documentario che si chiama Una scuola italiana, a Tor Pignattara, quartiere popolare di Roma, su cui assolutamente volevo lavorare perché mi ha un po' stregato. Era una donna che era in Italia da circa 18 anni, con una famiglia straordinaria, con tutte le, diciamo, una serie di contraddizioni che erano molto interessanti, per cui lei voleva assolutamente tornare in Egitto, il marito egiziano non voleva assolutamente invece ritornare in Egitto, i figli nati in Italia che amavano l'Egitto ma preferivano restare da noi, e quindi diciamo c'era questa grandissima ironia anche all'interno della famiglia, che affronta drammi e vicende della vita con una leggerezza che mi aveva molto sorpreso e colpito, soprattutto con un'ironia molto araba e proprio forse egiziana. Dopodiché aspettavo il momento per riuscire a fare un lavoro con loro. Il momento, insomma, è stata una situazione abbastanza drammatica, ossia un avviso di sfratto e quindi la necessità di abbandonare la casa in cui abitavano a Tor Pignattara e cominciare un percorso di occupazione. E quindi ho seguito, diciamo, l'arco narrativo, e da quando loro ricevono il primo avviso di sfratto a quando devono lasciare la loro casa e cominciare questo percorso, che li porterà poi a occupare un posto straordinario, nel senso che occupano insieme al movimento una villa sulla via Prenestina, che si chiama Villa Lauricella, che è proprio una villa con un parchetto che era in realtà al momento un luogo di spaccio, e c'era un contenzioso tra le società che gestivano le cooperative all'interno, quindi comunque era uno spazio vuoto e abbastanza anche malfamato dal quartiere. Loro trasformano nel corso di questo anno di occupazione, nel corso del film, questo luogo in un grandissimo esperimento di convivenza, e poi è un'occupazione che è di poche persone, quindi non presenta i problemi grandi che possono presentare appunto le grandi occupazioni in termini di organizzazione e di condivisione, no? Quindi per 300-400 persone che occupano uno stabile, insomma, dal punto di vista organizzativo è complesso. Qui erano 12 italiani, stranieri, di tutto, e quindi diciamo c'è stata questa, nel dramma c'è stata questa bellissima cosa che poi rispecchiava un po' quello che è il carattere e le inclinazioni di Mona, appunto si chiama così la nostra protagonista, Mona, che in arabo per fortuna insomma non è ligure, ma comunque invece in arabo vuol dire desiderio. Ecco, questo qui un po' è l'arco e la storia. Tra l'altro, per così per precisione, si tratta dell'occupazione proprio di fronte all'ex SNIA Viscosa in via Gattamelata, all'incrocio proprio con la Prenestina. Poi adesso però è stata sgomberata quell'occupazione. Dunque, il film finisce in Egitto, perché era il suo sogno di riuscire a tornare in Egitto. Alla fine del girato, insomma, il marito Ahmed riesce a trovare un lavoro, loro riescono a mettere un po' di soldi da parte e c'è questo ritorno in Egitto, quindi noi, i nostri protagonisti, li lasciamo lì. In realtà l'epilogo è stato molto più drammatico, tant'è che io poi ero molto in dubbio se montarlo o meno nel film. Adesso ce l'abbiamo lì, ma abbiamo deciso di lasciarlo con questo senso di sospensione, anche con questa aria verso una vita possibile anche in Egitto. È successo che appunto le politiche, come sappiamo, le politiche comunali all'inizio di settembre dell'anno scorso, ma poi tutto l'anno, insomma, sono state molto dure con tutte le occupazioni, sono successe cose molto brutte e questa è una di quelle, perché sono stati sfrattati all'alba. Voglio anche aggiungere che il movimento è un movimento che ha buoni rapporti, buoni diciamo tra virgolette, con le istituzioni, cercano sempre la mediazione, quindi in realtà lì sembrava che ci fosse un accordo, sembrava che ci fosse una mediazione, anche perché c'era un contenzioso ancora rispetto allo stabile, e invece all'alba sono entrati e li hanno mandati via tutti, e ora è in affitto. Non so se avete visto, c'è il cartello affitta sì. Su Villa Lauricella, quindi insomma è stato un epilogo. Poi la fine, loro erano preparati, però non pensavano che sarebbe successo così presto. Senti, Angelo, come hai documentato questa esperienza di occupazione che vedeva insieme persone di varia estrazione e anche provenienza? Guarda, c'è stato un accordo tacito tra tutti noi, nel senso che abbiamo molto condiviso anche dei premontati, abbiamo visto il materiale spesso insieme, sia con Mona e la sua famiglia, sia con gli altri occupanti, per capire anche che direzione dare al film. È un film, non è un film sulle occupazioni, è un film su una donna che è una specie di Anna Magnani egiziana, con un marito che è una specie di Peppino De Filippo, insomma c'è una situazione che mi ha attirato molto da quel punto di vista. Il contesto però è quello di prendere comunque le loro parti, sì. Ed è per questo che poi, tra l'altro, il film, diciamo, in luoghi istituzionali ha un po' di problemi a essere proiettato, perché è chiara la parte da cui, diciamo, la presa di posizione del film è abbastanza netta, anche se non è un film appunto sulle occupazioni, sì. E quindi ci siamo trovati dalla stessa parte in questo senso, io con la telecamera e quindi anche la possibilità di entrare nelle situazioni con grande serenità e partecipazione, e a un certo punto anche scomparire con la telecamera all'interno delle situazioni, con l'accordo naturalmente del movimento, a cui faceva comunque comodo avere una documentazione di quello che stava succedendo. Senti, per il suo percorso immagino che tu stia frequentando festival, e poi che succederà? Dunque, sì, abbiamo fatto tante proiezioni in giro fino adesso ci saranno due occasioni ancora, una a Verona il 22, poi il 26 siamo all'Est Film Festival a Monfalcone, dopodiché siamo in trattativa con Al Jazeera. Montefiascone, che ho detto? Monfalcone. Ah, Montefiascone, sì, provincia di Viterbo, sì, è lui. Siamo in trattativa con Al Jazeera perché abbiamo entrato nel frattempo un coproduttore italo-egiziano, lui è egiziano, che sta spingendo molto il film per una distribuzione araba, perché trova che ci sia un interesse da quel punto di vista, e con poi una proiezione anche al Cairo, che per me è molto importante, che rappresenta un po' una restituzione anche al luogo di origine di Mona, che è tanto affezionata. Quindi, diciamo, queste sono un po' le prospettive, e grazie a Dio c'è una prospettiva distributiva, anche se chiaramente non è nostra, cioè, mi piacerebbe anche riuscire a farlo vedere a noi, quindi, però insomma i discorsi con la Rai sono sempre complessi, e poi qui sì, comunque c'è appunto una presa di posizione piuttosto scottante per una emittente pubblica, e con tanti documentari che si fanno che chiaramente magari privilegiano delle tematiche che non sono così, tra virgolette, estreme. Senti, una curiosità rispetto attratto alla soluzione di questa vicenda umana, e ha coronato il suo sogno di tornare in Egitto. Com'è la sua vita lì, per quello che ne sai? No, in realtà lei è ritornata in Italia, ed è stata sfrattata insieme a tutti gli altri, quindi il film non è che la lascia in Egitto, ma non è che dice che poi lei vivrà in Egitto, lascia con una forma di ambiguità anche, sì. Per cui no, lei è tornata, è stata sfrattata di nuovo, appunto è stata sfrattata da Villa Lavicella ed è riuscita a entrare via Tempesta, che è un'altra occupazione del movimento di Action, via Tempesta, che comunque rimane il suo quartiere, quindi diciamo si è sistemata e abbastanza contenta al momento. Poi in più il marito appunto ha ricominciato a lavorare, quindi c'è una prospettiva anche di riprendere una casa, insomma. Lei ha tante risorse, lei pure lavora come mediatrice culturale, quindi comunque è una donna piena di risorse, piena di idee, che non, appunto, confronto noi siamo sentiamo nel panico al suo minimo soffio di vento. Lei ha affrontato montagne col sorriso sulle labbra, quindi. Senti Angelo, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, c'è un riferimento web che è una pagina Facebook, sì. Luoghi Comuni Angelo Loi, che si trova con tutte le date di proiezione. E poi spot1.tv, che è la produzione che si sta occupando della distribuzione, quindi ripeto, Luoghi Comuni Facebook Angelo Loi e spot1.tv sul web, invece come sito della produzione. Angelo, un abbraccio e a risentirci a presto. A voi, grazie mille. Ciao Federico, ciao a tutti, ciao. Arrivederci, ciao. Angelo Loi, regista del documentario Luoghi Comuni. Parliamo ora della 36esima edizione del Fanta Festival, che nelle ultime edizioni è stato piuttosto itinerante. Questa volta sarà in due luoghi romani, il Multisala Savoy e l'Isola del Cinema. Ne parliamo con Tino Franco, che se oltre a conoscere insomma la programmazione generale si occuperà anche di una parte di questa. Tino, intanto ben ritrovato. Ciao Federico. Allora, raccontaci un po' questa 36esima edizione. Intanto raccontiamo anche un po' del lungo percorso del Fanta Festival. Allora, il Fanta Festival io posso dire di averlo seguito dalla prima edizione del 1981. Sì. Quindi avevo 16 anni ed ero già un appassionato di cinema, di fantastico, di fantascienza, eccetera, e quindi è quasi stato naturale che poi negli anni, oltre alla frequentazione, quando mi sono trovato a fare delle cose tipo cortometraggi o serie televisive, ho partecipato e ho anche vinto, quindi questa sono legato sia per l'aspetto insomma della passione, ma anche lavorativo. E dall'anno scorso, con la mia associazione culturale, che è nel Blue Studios, quella di cui ogni tanto parliamo anche in trasmissione, perché noi continuiamo l'attività culturale sul cinema, sono andato a parlare con Alberto Lavaglioli, che poi è l'inventore e quello che lo dirige da 36 anni, quindi solo questo dovrebbero fargli un monumento. Lui va avanti nonostante tutto, perché faccio una piccola parentesi sulla difficoltà di questi piccoli festival a sopravvivere ormai nel panorama insomma culturale cinematografico italiano, è sempre più difficile. Comunque insomma continua, ci crede, e io cerco di aiutarlo. Banalmente, con la mia associazione organizziamo degli incontri che sono degli approfondimenti sul tema sempre della scrittura, della regia cinematografica, televisiva, legata al genere fantastico, fantascienza, horror, e quindi dall'anno scorso abbiamo cominciato questa collaborazione inventandoci questi effetti collaterali del Fanta Festival. Chi è così in addiction come noi poi alla fine sconta una serie di effetti collaterali che non si scappa insomma da questa cosa. Infatti il pubblico è il vero spettacolo del festival, perché il pubblico è sempre un pubblico molto competente, appassionato. Tra l'altro proprio stamattina sono arrivate delle mail di gente che verrà da un po' da tutta Italia per partecipare a questa cosa. Mm-hmm. E quindi insomma questo ci fa piacere nonostante appunto le difficoltà di cui ti accennavo insomma all'inizio. Le caratteristiche di quest'anno, per quello che ci puoi dire? Sì, no, io vi posso parlo diciamo a nome anche di Alberto, che sì, ho sentito poco fa. E niente, quest'anno noi appunto, come dicevi te all'inizio, continuiamo il festival alla multisala Savoy, non so mai come si dice, dal 13 al 17 luglio. E ci sarà una programmazione abbastanza intensa, dove come al solito ci sarà una panoramica delle migliori produzioni internazionali e anche una panoramica italiana. Diciamo che Fiore all'occhiello del primo giorno, cioè del 13, è il ritorno dopo 27 anni di Luis Coats, Luigi Cozzi, che ritorna con un film totalmente indipendente, autoprodotto, eccetera, e che sarà un'anteprima mondiale di questo Blood on Méliès Moon, che insomma che noi tremiamo solo all'idea di vedere questo film, diciamo. E questo sarà un momento bello, ci sarà lui. Io devo dire anche quello mi lega, cioè le prime edizioni del Fantafestia erano curate non solo da Alberto Lavaglioli ma anche da Luigi Cozzi, e quindi è un po' tornare a casa, ecco un po'. E niente, poi continuiamo con tantissime cose. Allora, prima di tutto il festival è anche un'occasione un po' per rivedersi un po' tutte persone appassionate, ma anche quella di vedere ad esempio una mostra personale di un artista che è sempre in tema, presenterà le sue opere, si parla di Mariano Baino, e niente, questa sarà una mostra personale che si chiamerà Luctus Ignis. Poi abbiamo uno spazio per la realtà virtuale, sì, a cura del Vigamus, del Museo del Videogioco. E continuando con le celebrazioni, sicuramente è importante il 17 luglio perché facciamo un omaggio a Wes Craven, che è scomparso l'anno scorso, riproiettando Scream e facendo insomma un po' un omaggio a un grande del genere, insomma, horror statunitense. Dopodiché abbiamo anche una sezione, aspetta che sto leggendo, che qua sono, sì, talmente tante, sì, le cose che abbiamo una sezione di Panoramica Italia, abbiamo uno spazio abbastanza importante per i cortometraggi che si chiama Fantacorti. E insomma, e poi soprattutto una collaborazione con un festival di cinema fantastico dell'America Latina, e quindi anche in questo caso ci sarà modo di vedere cose che altrimenti nonostante poi internet eccetera sarà difficile vedere, perché poi il Fantafestival propone delle cose inedite, delle cose di cui si occupa della sottotitolatura, dell'edizione, quindi fa sempre questo lavoro che per me, ripeto, da quando lo seguo dall'inizio degli anni 80 è stato importante. Cioè senza il Fantafestival io non avrei conosciuto, che so, Tetsuo di Shinya Tsukamoto, piuttosto che il famosissimo oggi coso, quello del Signore degli Anelli, no? Aiutami, che c'ho un attimo di buco. Sì, <anch'io>. Dai. Comunque sì, lui va bene. Vabbè, insomma, lui del Signore degli Anelli è nato anche lui al Fantafestival, nel senso i primi film che erano Bad Taste, eccetera, sì, li abbiamo visti là, e voglio dire, in sala mi ricordo c'era Enrico Ghezzi piuttosto che altri altri critici che l'hanno scoperto grazie al Santa Festival, anche Tetsuo di Shina Sugamoto è stato scoperto là, e per la mia generazione è stato uno spartiacque, insomma, quel film. Sì, sì. Senti Tino, più o meno quante saranno le opere di questo festival? Ah, questa è una bella domanda, dovete venire a scoprirlo venendoci, perché è una marea di roba e tuttora stiamo acquisendo ancora materiale, eccetera. Ci sarà una retrospettiva sul fantastico prodotto da Mediaset. L'anno scorso abbiamo fatto una retrospettiva sul fantastico prodotto dalla Rai, quest'anno invece faremo anche quello che produce poco, però che producono anche le TV generaliste, diciamo, questa è un po' la cosa. Ma allora, guarda, in realtà ti ripeto, le cose sono tante e non sono soltanto proiezioni, come ti dicevo, sì. Ma sia alla Multisala Savoy che all'Isola del Cinema ci sono delle presentazioni di libri e altre iniziative di approfondimento. Okay. Faccio una brevissima... Allora, c'è la presentazione di un libro dei fantasceneggiati, quelli prodotti in Rai, e questo è a cura anche di Carlo Modesti Power, che è tra l'altro è anche, mi dicono, uno speaker di Radio Onda Rossa, insomma, quindi è caro anche alla radio. E così come anche ci sarà la presentazione di un magazine che riguarda i mostri, l'Antropocinema, un libro che si chiama Antropocinema. Poi ci sarà Horror Writers Association, poi ci sarà Strisciano sull'asfalto. Insomma, il programma è veramente ricchissimo, ma soprattutto è importante venire poi quando facciamo questa celebrazione all'Isola del Cinema, all'Isola di Berina. Questo però sarà dal 20 al 24 luglio allo Schermo Tevere, tra l'altro l'ingresso è gratuito, e dello spazio Tevere, dello Schermo Tevere, e celebriamo una serie molto importante, almeno per la mia generazione, ma che continua comunque ad avere grande attenzione, perché quest'anno dopo 50 anni si celebrano appunto i 50 anni nel futuro di Star Trek. Uh-huh. Questo rientra nelle cose che seguo più io, diciamo, degli effetti collaterali. E il regista era Peter Jackson. Ecco, Peter mi è rivenuto Jackson. In mente, ma ecco. Senza aiutarmi con la rete. Ecco, no, è molto importante Peter Jackson, devo dire. Peter Jackson. Perché poi non è importante solo per il ciclo del Signore degli Anelli, ma sì, soprattutto per Evelyn Creatures, che è un bellissimo film che andò a Venezia e prese un Leone d'Argento, mi ricordo. Sì. E nulla, insomma, l'Isola del Cinema, noi siamo lì da mercoledì 20 a domenica 24. Faccio una piccola carrellata degli incontri, perché è veramente una follia su Star Trek. Ci sarà nel primo incontro, che sarà mercoledì 20 luglio, l'antropologia in Star Trek, appunto di Carlo Modesti Power. Poi continuiamo con il secondo incontro, l'influenza della narrativa fantastica su Star Trek, a cura di Armando Corridore, che è un editore col quale già collaboriamo dall'anno scorso. Poi ci sarà un terzo incontro sulle innovazioni scientifiche che si sono realmente realizzate. Mi viene in mente il sistema di comunicazione che usava il comandante Kirk, che poi fu copiato dalla Motorola per lo StarTAC famoso. E il quarto incontro sarà il tema della controcultura, vista dal punto di vista di Star Trek, e questo è divertente perché proprio nel 66-67, quando esplodeva negli Stati Uniti, no, il movimento della controcultura hippie, tutto questo viene raccontato anche nella serie televisiva, nella seconda stagione, mi sembra. E l'ultimo incontro sarà sulla struttura narrativa seriale in Star Trek, a cura di Matteo Martone, che è uno scrittore ed editor di Rai Fiction. Ah, mi sono dimenticato che il tema della controcultura è tenuto da Bruno Turco, che è un docente di religione e filosofia dell'India presso l'Università della Sapienza, e che l'innovazione scientifica e tecnologica anticipata della Star Trek è tenuto da Simone Scardecchia, che è anche il direttore artistico della nostra associazione. Okay. Insomma, gli appuntamenti sono infiniti, ma la cosa migliore è venire il 13 a vedere questi pazzi che si incontrano travestiti da zombie, da vampiri, insomma è tutto molto bello e non è solo un gioco, insomma, sì, per sì, noi. Sì. Allora, sicuramente le informazioni anche sul sito del Fantafestival, sito internet, sì. Pagina Facebook. Tino, io ti abbraccio, ci si vede all'Isola del Cinema. No, ci si vede prima alla Multisala Sauri. Okay. Il 13, dai, venite tutti quanti che insomma vogliamo fare un po' movimento su tutte queste cose, perché veramente siamo stati tenuti all'angolo quest'anno. Okay. Un abbraccio e a presto, Tino. Grazie. Ciao. Tino Franco per parlarci della 36esima edizione del Fanta Festival nella doppia location del Multisala Savoy e l'Isola del Cinema qui a Roma dal 13 al 24 luglio. Con questo terminiamo l'appuntamento di questa settimana con Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta alla diretta. Le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.